Europa 24. L'abbiamo sentito anche poco fa in effetto giorno, domani il vertice europeo sull'immigrazione. Non ci saranno rimpatri a tappeto e respingimenti. L'accordo con la Turchia rispetterà il diritto europeo e la legge internazionale, dice il primo vicepresidente Frans Timmermans. E stamattina le parole del premier Renzi alla Camera. L'Europa va su Marte ma si ferma di domani. Nessun rimpatrio a tappeto, ma anche nessuna scorciatoia sui visti alla Turchia. Il vicepresidente della Commissione europea Timmermans mette in chiaro la posizione delle istituzioni comunitarie alla vigilia del Consiglio europeo, in cui si discuterà dell'accordo con Ankara sui migranti. Un accordo che, dice, rispetterà il diritto comunitario e la legge internazionale. L'ultima cosa che vogliamo è che domani diventi la regola. Quanto alla richiesta della Turchia di una liberalizzazione dei visti come contropartita, Timmermans è chiaro: non ci sono scorciatoie. Intanto all'Italia. I centri di rimpatrio sono troppo limitati. Dopo che era stato lo stesso Matteo Renzi, nelle sue comunicazioni in Parlamento questa mattina, a strigliare l'Europa per le troppe decisioni inattuate. L'Europa va su Marte, aveva detto, e si ferma ai domeni. Troppi vertici, dice poi Renzi, il terzo in un mese, segno che qualcosa non va. Quanto all'accordo da negoziare con la Turchia, ribadisce: giusto cercare di fare l'accordo con la Turchia, ma ovviamente non a tutti i costi. Ci sono dei principi che sono per noi i principi fondamentali, a partire da quello dei diritti umani, della libertà di stampa. Ma al centro del Consiglio europeo di domani anche i temi economici, così Renzi sul Fiscal Compact. Il Fiscal Compact e le sue declinazioni hanno comportato un danno alla direzione politica economica dell'Europa. Occorre spostare la direzione dell'Europa su flessibilità, investimenti, come da tempo chiede l'Italia, dice ancora il Premier, e su questo abbiamo dettato l'agenda perché ci sono stati passi in avanti, seppur timidi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Entrare in Europa legalmente senza rischiare la vita. Il Parlamento europeo dà il via libera ad un pacchetto di provvedimenti che comprende anche l'istituzione del visto umanitario. Ora la parola passa alla Commissione europea. L'europarlamentare Cécile Kyenge sta manifestando davanti al Parlamento europeo. L'ha raggiunta Anna Marino. E noi oggi manifestiamo come gruppo dei socialisti e democratici davanti al Parlamento a un segno per far capire più solidarietà, ma anche di responsabilizzare tutti gli stati membri. Non vogliamo i muri, infatti la nostra manifestazione oggi si chiama Niente Muri, vogliamo un'Europa unita. Proprio oggi c'è l'approvazione anche di alcuni provvedimenti. Oggi noi abbiamo approvato dentro il Parlamento uno dei rapporti più importanti, partendo da quello che è una revisione del regolamento di Dublino, a quello che è il sistema per l'asilo, dove noi chiediamo appunto un sistema centralizzato, andare oltre il primo paese di approdo. Questa è una proposta del Parlamento, a breve, quindi il prossimo mese sarà presentato il progetto legislativo. Il visto umanitario europeo, secondo lei, è utile? Noi abbiamo comunque approvato anche questi visti umanitari, anche la possibilità di richiedere un visto anche nel presso consolati, nei paesi insomma di origine, con un visto da dove provengono i migranti, per arrivare poi nell'Unione a poter chiedere, insomma, cominciare con il percorso di asilo. Questo sarebbe importante per l'identificazione delle persone. Esattamente. Noi andiamo a sostenere anche quello che è la lotta contro il traffico di esseri umani, perché in qualche modo si legalizzano alcune vie accoglienza che comincia già dal paese di origine. Il commerciante che offre rete Wi-Fi gratis non è responsabile per violazioni del copyright da parte di utenti occasionali. È il parere dell'avvocato generale della Corte di Giustizia europea Marcei Zupnar in relazione ad una causa fra un commerciante di Monaco di Baviera e la Sony, che lo accusa di aver violato i diritti di copyright perché un suo cliente ha scaricato musica illegalmente usando la sua rete Wi-Fi. Ed è tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.